Capitolo 29. Un mattino, alcune settimane dopo il suo arrivo a Lowick, Dorotea. Ma perché sempre Dorotea? Il suo punto di vista era l'unico possibile riguardo a questo matrimonio? Io protesto affinché tutto il nostro interesse e tutti i nostri sforzi di comprensione non vengano accordati alle giovani carnagioni che hanno un aspetto fiorente a dispetto dei tormenti. Perché anch'esse avvizziranno e conosceranno i dolori più antichi e corrosivi che noi stiamo contribuendo a trascurare. A dispetto dello sbattimento delle palpebre e delle verruche bianche, che spiacevano tanto a Celia, e della mancanza di curve muscolose che era moralmente penosa per Sir James, Mr. Casaboy aveva dentro di sé una coscienza intensa ed era affamato di spiritualità come il resto di noi. Non aveva fatto nulla di eccezionale a sposarsi. Nulla tranne ciò che la società autorizza e considera un'occasione per corone e mazzi di fiori. Aveva pensato che non doveva rimandare oltre la sua intenzione di sposarsi ed aveva riflettuto che nel prendere moglie un uomo economicamente benestante si dovesse aspettare scegliere con cura una florida signorina. Quanto più giovane tanto meglio, perché è più facile da istruire e sottomessa. Di rango uguale al proprio, di principi religiosi, di disposizione virtuosa e di buon comprendonio. A una tale giovane signora egli avrebbe dato un'ottima sistemazione e non avrebbe trascurato nessuna disposizione per la sua felicità. In cambio, egli avrebbe ricevuto le gioie della famiglia e si sarebbe lasciato dietro quella copertina che sembrava richiesta con tanta urgenza a un uomo dai sonettisti del XVI secolo. I tempi erano cambiati da allora e nessun sonettista aveva insistito perché Mr. Casaubon lasciasse una copia di sé. Per di più, non era ancora riuscito a pubblicare delle copie della sua chiave mitologica, ma aveva sempre avuto l'intenzione di fare il suo dovere sposandosi e la sensazione che egli si stava lasciando rapidamente gli anni alle spalle, che il mondo stava diventando più cupo e che egli si sentiva solo, furono per lui una ragione per non perdere altro tempo nel raggiungere quelle gioie domestiche prima che anch'esse non fossero lasciate indietro dagli anni. E quando ebbe visto Dorotea, credete di aver trovato persino di più di quanto credesse. Lei avrebbe potuto davvero essergli di tale aiuto da consentirgli di fare a meno di una segretaria stipendiata, un ausilio di cui Mr. Casaubon non si era ancora servito e di cui aveva un sospettoso timore. Mr. Casaubon era nervosamente consapevole che gli altri si aspettavano che mostrasse una grande intelligenza. La provvidenza, nella sua bontà, gli aveva dato la moglie di cui aveva bisogno. Una moglie, una giovane modesta, con la pura capacità della riconoscenza e della mancanza di ambizioni tipiche del suo sesso, considererà certo la mente del marito vigorosa. Se la provvidenza si fosse presa uguale cura di Miss Brooke offrendole Mr. Casaubon, era un'idea che non poteva certo passargli per la testa. La società non avanzava mai la richiesta assurda che un uomo pensasse alla propria capacità di rendere felice una fanciulla incantevole nello stesso modo in cui egli pensava alla capacità di questa di rendere felice lui. Come se uno potesse scegliere non solo la moglie, ma anche il marito della moglie, o come se fosse obbligato a fornire quella propria persona attrattive per i posteri. Quando Dorotea lo accettò con entusiasmo, la cosa gli parve del tutto naturale e Mr. Casaubon credeva che la sua felicità stesse per cominciare. Negli anni di vita trascorsi non aveva assaggiato molta felicità. Per conoscere una gioia intensa, senza possedere una corporatura forte, bisognava avere un'anima entusiasta. Mr. Casaubon non aveva mai avuto una costituzione robusta e la sua anima era sensibile senza essere entusiasta. Era troppo languida per passare con entusiasmo dall'imbarazzo alla gioia appassionata. Continuava a svolazzare sul terreno paludoso dove era stata covata, pensando alle proprie ali e mai a volare. Il suo carattere era di quel genere penoso che si ritrae dalla compassione e più di tutto teme di venir conosciuto. Si trattava di quell'orgogliosa, gretta sensibilità che non possiede sufficiente massa in più da trasformare in comprensione e trema come una foglia in piccole correnti di apprensione personale o, nel migliore dei casi, di una scrupolosità egoistica. E Mr. Casaubon aveva molti di scrupoli. Era capace di una severa autodisciplina, era risoluto ad essere un uomo d'onore, secondo quanto prescriveva il codice. Sarebbe stato trovato irreprensibile da qualsiasi opinione riconosciuta. Nella condotta questi scopi erano stati raggiunti, ma la difficoltà di rendere irreprensibile la sua chiave di tutte le mitologie gli pesava sul capo come il piombo, e i suoi pamphlet, o parerga come li chiamava lui, con cui saggiava il suo pubblico e depositava piccole testimonianze monumentali della sua marcia, erano erano ben lungi dall'essere stati considerati in tutta la loro portata. Aveva il sospetto che l'arcidiacono non li avesse letti, era tormentato dal dubbio penoso riguardo a cosa pensassero realmente di essi le menti superiore del Brasenose College, e aveva l'amara convinzione che quella sua vecchia conoscenza, Carp, fosse stato l'autore di quella recensione denigratoria che veniva tenuta da Mr. Casabo sotto chiave in un cassettino della scrivania e anche in un buio camerino della sua memoria verbale. Codeste erano sensazioni gravi contro cui combattere e provocavano quell'amarezza malinconica che è la conseguenza di ogni pretesa eccessiva. Persino la sua fede religiosa barcollava col barcollare della sua fiducia nelle proprie capacità di autore, e le consolazioni della speranza cristiana nell'immortalità sembravano poggiare sull'immortalità dell'ancor non scritta chiave di tutte le mitologie. Per parte mia, sono molto dispiaciuta per lui. Nel migliore dei casi è un destino scomodo possedere quella che chiamiamo una grande cultura, eppure non essere felice. Avere presente questo grande spettacolo della vita e non essere mai libero da un piccolo ego affamato e rabbrividente. Non avere mai il possesso pieno della gloria che ammiriamo. Non avere mai la coscienza trasformata estaticamente nella vivezza di un pensiero, nell'ardore di una passione, nell'energia di un'azione, ma essere sempre dotto e privo di ispirazione, ambizioso e timido, scrupoloso e miope. Diventare decano o addirittura vescovo avrebbe fatto poca differenza, temo, per il senso di disagio di Mr. Casabo. Senza dubbio, qualche antico greco ha osservato che dietro la grande maschera e la tromba sonora devono esserci sempre i nostri poveri piccoli occhi che sbirciano come di consueto e le nostre labbra timorose tenute sotto controllo, più o meno ansiosamente. A questo patrimonio mentale abbozzato un quarto di secolo prima, a dei sentimenti così limitati, Mr. Casebo aveva pensato di annettere la felicità sotto forma di una moglie bella e giovane. Ma anche prima del matrimonio, come abbiamo visto, si sentì nuovamente depresso, consapevole che la nuova gioia non lo faceva gioire. La sua disposizione anelava tornare alle sue vecchie, più tranquille abitudini. E quanto più sprofondava nella vita domestica, tanto più il senso di comportarsi bene e di agire nel modo dovuto predominava su ogni altra soddisfazione. Il matrimonio, come la religione e l'erudizione, come il fatto stesso di essere un autore, era destinato a divenire un'esigenza esteriore ed Edward Casabo era incline a soddisfare irreprensibilmente ogni esigenza. Persino mettere al lavoro Dorotea nel suo studio, cosa che egli stesso aveva avuto intenzione di fare prima del matrimonio, era uno sforzo che era sempre tentato di rimandare e se non fosse stato per le supplichevoli insistenze di lei, forse non sarebbe mai cominciato. Ma lei era riuscita a far accettare come una cosa naturale il fatto di poter accedere di buon'ora nella biblioteca e farsi assegnare del lavoro che poteva consistere nella lettura ad alta voce o nella copiatura. Il lavoro era stato più facile da definire perché Mr. Casabo aveva scelto un fine immediato. Bisognava compilare un nuovo Parergon, una piccola monografia su alcuni indizi scoperti di recente sui misteri egiziani, grazie ai quali certe asserzioni di Waterbury si potevano correggere. I riferimenti erano estesi anche qui, ma non illimitati, e le frasi dovevano in realtà essere scritte in una forma tale da poter sostenere il giudizio dell'ambiente di Bresnosa e di posteri meno formidabili. Le produzioni monumentali minori suscitavano sempre una grande eccitazione in Mr. Casabo. La digestione era resa difficile dall'interferenza delle citazioni o dal contrapporsi di frasi dialettiche che risuonavano l'una contro l'altra nel suo cervello. E fin dall'inizio doveva esserci una dedica al latino, su cui tutto era incerto, tranne il fatto che non doveva essere rivolta a Carp. Era un rincrescimento velenoso per Mr. Casabo l'avere una volta indirizzato una dedica a Carp, nella quale aveva posto quel membro del regno animale fra i viros nullo evo perituros, un errore che infallibilmente avrebbe esposto l'autore al ridicolo nell'età futura e sul quale avrebbero magari sogghignato Pike e Tank nell'epoca attuale. Cosicché Mr. Casabo si trovava in uno dei suoi momenti più operosi e, come aveva cominciato a dire poco fa, Dorotea lo raggiungeva di buon mattino nella biblioteca dove egli aveva fatto colazione da solo. Celia in quel periodo stava facendo una seconda visita a Lowick, probabilmente l'ultima prima del matrimonio, e si trovava nel salotto in attesa di Sir James. Dorotea aveva preso a leggere i segni dell'umore del marito e quel mattino si rese conto che durante l'ultima ora era diventato più confuso. Si stava dirigendo silenziosamente verso il suo tavolinetto allorché egli disse, con con quel tono distaccato che sottintendeva l'esecuzione di un dovere ingrato. Dorotea, ecco una lettera per voi che era legata a una indirizzata a me. Era una lettera di 2 pagine e ne guardò immediatamente la firma. Mister Ladislaw, cosa può avere da dirmi? Esclamò con un tono di sorpresa compiaciuta, ma aggiunse guardando Mister Casabo, posso immaginare cosa abbia scritto a voi? Potete, se volete leggere la lettera, disse Mister Casabo puntando verso di essa la penna con aria severa e senza guardare Dorotea. Tanto vale che vi dica subito che devo declinare la proposta che contiene di fare una visita qui. Spero che mi si scusi se considero avere un intervallo di completa libertà da quelle distrazioni che sono state finora inevitabili e soprattutto da parte di ospiti la cui sconnessa vivacità fa della loro presenza un peso faticoso da sopportare. Non vi erano stati altri scontri stizzosi fra Dorotea e il marito dal tempo di quella piccola esplosione a Roma, che aveva lasciato tracce così profonde nello spirito di lei che da allora era stato più facile soffocare il sentimento che affrontare le conseguenze di sfogarlo. Ma questa airosa previsione che lei desiderasse visite che potevano essere sgradite al marito, questa gratuita difesa di se stesso contro un'egoistica lamentela da parte di lei, era un colpo troppo doloroso per meditarci sopra fino a che fosse scomparso il risentimento. Dorotea aveva pensato che avrebbe potuto essere paziente con John Milton, ma non aveva mai immaginato che questi si potesse comportare in un modo simile, e per un momento Mister Casebo parve essere stupidamente ottuso e odiosamente ingiusto. La compassione, quel fanciullo appena nato, che entro breve tempo avrebbe dominato molte tempeste nel suo petto, non cavalcò la tempesta in questa occasione. Le sue prime parole, pronunciate con un tono che scosse Mister Casabo, lo costrinsero a guardarla con un sobbalzo e a incontrare il bagliore dei suoi occhi. Perché pensate che desideri qualsiasi cosa che potrebbe irritarvi? Mi parlate come se fossi qualcosa contro cui dobbiate combattere. Aspettate almeno finché non vedrete che io baderò al mio piacere trascurando il vostro. Dorotea, siete precipitosa, rispose Mister Casabo innervosito. Decisamente questa donna era troppo giovane per raggiungere il livello formidabile di una moglie, a meno che non fosse stata pallida, priva di carattere e avesse preso tutto per scontato. Io penso che siate stato voi ad essere precipitoso per primo con le vostre false supposizioni sui miei sentimenti, disse Dorotea con lo stesso tono di voce. Il fuoco non era ancora spento e pensava che fosse ignobile da parte di suo marito non chiederle scusa. Per favore, non parliamo più di questo argomento, Dorotea. Non ho né il tempo né l'energia per questo genere di discussioni. A questo punto, Mister Casabo intinse la penna e fece come per riprendere a scrivere, sebbene la mano gli tremasse a tal punto che le parole sembravano scritte in caratteri sconosciuti. Vi sono risposte che, scacciando l'ira, la mandano sola all'altra estremità della stanza e far terminare freddamente una discussione quando si immagina che la ragione sia tutta dalla propria parte è ancora più esasperante nel matrimonio che nella filosofia. Dorotea lasciò le 2 lettere di Ladislav sullo scrittoio del marito senza leggerle e andò al proprio posto. Il disprezzo e l'indignazione entro il suo petto si rifiutavano di leggere queste 2 lettere, proprio come gettiamo via qualsiasi ciarpame che si sia stati sospettati di guardare con meschina cupidigia. Non indovinò minimamente le sottili origini del malumore del marito a proposito di queste lettere. Sapeva solo che le avevano portato a offenderla. Si mise subito al lavoro e la sua mano non tremò. Al contrario, nello stilare le citazioni che le erano state passate il giorno precedente, si accorse di scrivere le lettere in una calligrafia stupenda e le sembrava di vedere la costruzione del latino che stava copiando e che cominciava a comprendere più chiaramente del solito. Nella sua indignazione c'era un senso di superiorità. Ma questo si esaurì per il momento nella fermezza del tratto e non si compresse in una voce interiore articolata che definiva una povera creatura l'affabile arcangelo di una volta. Questa quiete apparente durava da mezz'ora e Dorotea non aveva distolto lo sguardo dal proprio tavolo quando udì il sonoro fragore di un libro sul pavimento e, voltatasi subito, vide Mister Casabo sugli scalini della biblioteca tendersi in avanti come se soffrisse di un dolore fisico. Di scatto, balzò verso di lui in un attimo. Evidentemente egli faceva una gran fatica a respirare. Salita su uno sgabello, si avvicinò al suo gomito e disse con tutta l'anima intenerita per lo spavento: Potete appoggiarvi a me, caro. Egli rimase immobile per 2 o 3 minuti, che a lei sembrarono eterni, incapace di parlare o di muoversi, respirando a fatica. Quando alla fine discese i 3 scalini e ricadde all'indietro nell'ampia poltrona che Dorotea aveva tirato vicino ai piedi della scala, egli non ansimava più, ma sembrava debole, sul punto di svenire. Dorotea suonò il campanello con violenza e immediatamente Mr. Casebo fu aiutato ad andare verso il divano. Non svenne. E stava rinvenendo a poco quando Sir James Chatham entrò, essendogli stata recata nell'ingresso la notizia che Mr. Casebo aveva avuto un attacco nella biblioteca. Buon Dio, questo è proprio ciò che c'era da aspettarsi, fu il suo pensiero immediato. Se la sua anima profetica fosse stata spinta ad essere più precisa, gli pareva che attacchi sarebbe stata l'espressione esatta che avrebbe scelto. Chiese al suo informatore, il maggiordomo, se fosse stato chiamato il dottore. Il maggiordomo non ricordava che il suo padrone avesse avuto bisogno di un dottore in precedenza, ma non sarebbe stato giusto ora mandare a chiamare un medico? Quando Sir James entrò in biblioteca, però, Mr. Casebo fu in grado di mostrare qualche segno delle sue consuete buone maniere e Dorotea, che per reazione al suo primo terrore era stata inginocchiata a singhiozzare al suo fianco, ora si alzò e lei stessa propose che qualcuno prendesse un cavallo e andasse a chiamare un medico. Vi consiglio di mandare a chiamare Lydgate, disse Sir James. Lo ha chiamato mia madre, che ha una brutta opinione dei dottori da quando è morto mio padre, e lo ha trovato di una bravura non comune. Dorotea si rivolse al marito e questi fece un muto cenno di assenso. Così fu mandato a chiamare Lydgate, che arrivò prestissimo perché il messaggero, che era il domestico di Sir James Chatham e conosceva Mr. Lydgate, l'aveva incontrato che conduceva il cavallo per le redini lungo la strada di Lowick e dava il braccio a Miss Vincey. Celia, nel salotto, non seppe nulla del trambusto finché non glielo disse Sir James. Dopo la descrizione di Dorotea, non considerava più la malattia un attacco, ma tuttavia qualcosa di quel genere. Povera cara Dodo, che cosa terribile, disse Celia, provando tutto il dolore che la sua perfetta felicità le consentiva. Le sue piccole mani erano strette racchiuse da quelle di Sir James, come un boccio, e avviluppato da un ampio calice. È proprio sbalorditivo che Mr. Casebo debba essere malato, ma non mi è mai piaciuto. E penso che non sia innamorato di Dorotea la metà di quanto sarebbe sufficiente. E dovrebbe esserlo, perché sono certa che nessun'altra avrebbe potuto prenderselo, non credete? Io ho sempre pensato che vostra sorella si sacrificasse in modo orribile, disse Sir James. Sì, ma la povera Dodo non ha mai fatto quello che fanno gli altri e penso che non lo farà mai. È una creatura nobile, disse il leale Sir James. Ne aveva appena avuto un'impressione fresca quando aveva visto Dorotea distendere il suo tenero braccio sotto al collo del marito e guardarlo con indicibile tristezza. Egli non sapeva quanto pentimento ci fosse in quella tristezza. Sì, disse Celia, pensando che era molto bello da parte di Sir James dire questo, ma allo stesso tempo sicura che lui non si sarebbe trovato a suo agio con Dodo. Volete che vada da lei? Credete che le potrei essere di aiuto? Credo che sarebbe bene che vi limitasse ad andarla a vedere prima che arrivi Lydgate, disse Sir James con magnanimità. Solo, non trattenetevi a lungo. Mentre Celia era via, egli camminò avanti e indietro, ricordando ciò che aveva originariamente pensato sul fidanzamento di Dorotea e sentendo rinascere il proprio disgusto per l'indifferenza di Mr. Brooke. Se Cadwell e tutti gli altri avessero guardato alla faccenda con i suoi occhi, il matrimonio si sarebbe potuto impedire. Era malvagio lasciare che una ragazzina decidesse il proprio destino in questo modo, senza che nessuno si sforzasse per salvarla. Sir James aveva da tempo cessato di sentire dei rimpianti per sé. Il suo cuore era soddisfatto del fidanzamento con Celia, ma egli era dotato di una natura cavalleresca. Il servizio disinteressato a favore della donna non era una delle glorie ideali della vecchia cavalleria? Il suo amore disprezzato non si era volto in asprezza. La sua morte aveva lasciato dolci aromi, ricordi fluttuanti che aderivano a Dorotea con un effetto consacratore. Egli poteva restare il suo amico fraterno, interpretando le azioni di lei con fiducia generosa. Capitolo 30. Mr. Casebo Non ebbe un secondo attacco di gravità uguale al primo e nel giro di pochi giorni cominciò a ristabilirsi. Ma Lydgate sembrava considerare il caso degno di grande attenzione. Non solo usò il suo stetoscopio, il cui uso a quel tempo nella pratica medica non era ancora divenuto normale, ma stava seduto tranquillo presso il suo paziente e lo osservava. Alle domande di Mr. Casaubon sulle proprie condizioni, rispondeva che all'origine della malattia c'era l'errore comune degli intellettuali. Un'applicazione troppo assidua e monotona. Il rimedio consisteva nell'essere soddisfatto di una modica quantità di lavoro e cercare svaghi diversi. Mr. Brooke, che in un'occasione stava seduto lì accanto, suggerì che Mr. Casaubon andasse a pescare, come faceva Cadwallader, e si facesse una stanza da tornitore, producendo giocattoli, gambe da tavolo e quel genere di cose. In breve mi consigliate di anticipare l'arrivo della mia seconda infanzia, disse il povero Mr. Casaubon con una certa amarezza. Queste cose, soggiunse guardando Lydgate, per me sarebbero uno svago come lo sfilacciare la stoppa lo è per i detenuti in una casa di correzione. Confesso, disse Lydgate sorridendo, che il divertimento è una ricetta insoddisfacente. È un po' come dire alla gente di star su di morale. Forse farei meglio a dire che dovete adattarvi ad annoiarvi leggermente invece di continuare a lavorare. Sì, fece Mr. Brooke. Fate giocare Dorothea Backgammon con voi alla sera. E a volano, per esempio. Non conosco un gioco più carino del volano durante la giornata. Mi ricordo che era molto di moda. Certo, forse i vostri occhi non potrebbero sopportarlo, Casaubon, ma dovete rilassarvi, capite? Ma sì, potreste dedicarvi a qualche studio leggero. La conchigliologia, per esempio. Penso sempre che sia uno studio poco impegnativo. O farvi leggere da Dorothea delle cose leggere, Smollett, Roderick Random, Humphrey Clinker. Sono un po' sboccati, ma può leggere qualsiasi cosa adesso che è sposata, capite? E ricordo che mi hanno fatto ridere in misura fuori del comune. C'è un pezzo buffo sulle mutande di un postiglione. Adesso non abbiamo più un simile umorismo. Io tutte queste cose le ho lette, ma potrebbero essere una novità per voi. Una novità come mangiare cardi? Sarebbe stata una risposta che avrebbe rappresentato i sentimenti di Mr. Casaubon, ma si limitò a inchinarsi con aria rassegnata, col dovuto rispetto per lo zio della moglie, e osservò che senza dubbio le opere che aveva ricordato erano servite come risorsa a menti di un certo genere. Capite, disse il bravo magistrato a Lydgate quando furono fuori dalla porta. Casaubon è stato un po' limitato. Si sente un po' sperduto quando gli proibite il suo lavoro particolare, che credo sia davvero qualcosa di assai profondo nel senso della ricerca, capite? Io non ho mai voluto lasciarmi andare in quel senso, sono stato sempre versatile. Ma un prelato ha un po' le mani legate. Se lo facessero vescovo, per esempio, ha scritto un pamphlet molto buono in difesa di Peel. Allora, si muoverebbe di più. Si metterebbe maggiormente in risalto, potrebbe mettersi un po' più in carne. Ma vi consiglio di parlare con Mrs. Casaubon. È sveglia per qualsiasi cosa, mia nipote. Ditele che il marito ha bisogno di vivacità, di diversivi. Suggeritele una tattica per farlo divertire. Anche senza il consiglio di Mr. Brooke, Lydgate aveva deciso di parlare a Dorothea. Questa non era stata presente mentre lo zio esprimeva i suoi piacevoli suggerimenti sul modo di animare la vita a Lowick. Stava solitamente a fianco del marito e i segni genuini di una preoccupazione intensa sul suo volto e nella voce per qualsiasi cosa attinente la mente o la salute di lui costituivano un dramma che Lydgate desiderava osservare. Egli si disse che faceva solo bene a dire la verità sul probabile futuro del marito, ma certo pensava anche che sarebbe stato interessante parlarle in confidenza. A un medico piace fare delle osservazioni psicologiche, talvolta, conducendo simili studi, è tentato troppo facilmente a pronunciare delle profezie di gran peso, che facilmente la vita e la morte tengono in ben poco conto. Lydgate era stato spesso caustico su queste predizioni gratuite e ora intendeva stare in guardia. Chiese di Mrs. Casaubon, ma venuta a sapere che era fuori a passeggiare, se ne stava andando quando Dorothea e Celia comparvero, entrambe accaldate per aver lottato col vento di marzo. Quando Lydgate le chiese di parlare a quattro occhi, Dorothea aprì la porta della biblioteca, che per caso era la più vicina, non pensando al momento a nulla tranne a ciò che avrebbe potuto dirle a proposito di Mr. Casaubon. Era la prima volta che entrava in quella stanza da quando il marito era caduto ammalato e il servitore aveva preferito non aprire le persiane. Ma dagli stretti vetri superiori delle finestre entrava luce sufficiente per leggere. Spero che non vi dispiaccia questa luce cupa, disse Dorotea in piedi in mezzo alla stanza. Da quando avete proibito i libri, la biblioteca è stata messa fuori discussione. Ma Mr. Casebo tornerà presto qui, spero. Non sta migliorando. Sì, molto più rapidamente di quanto mi aspettassi all'inizio. In effetti ha quasi raggiunto il suo normale stato di salute. Non temete che ci sia una ricaduta? Chiese Dorotea, il cui udito fine aveva colto un qualche significato nel tono di Lydgate. È particolarmente difficile pronunciarsi su simili casi, disse Lydgate. L'unica cosa di cui posso essere certo è che sarà desiderabile fare molta attenzione a Mr. Casamo perché non sforzi in alcun modo il suo sistema nervoso. Vi prego di parlare del tutto chiaramente, disse Dorotea in tono implorante. Non posso sopportare l'idea che ci potesse essere qualcosa che io ignorassi e che se l'avessi saputa mi avrebbe fatto comportare in modo diverso. Queste parole le uscirono come un grido. Era evidente che erano la voce di qualche esperienza mentale non molto remota.